Succo di zenzero, piuma d'oca, piumi in rosa, piumi in da donna, non puoi fermarci come la droga. Tre collane, bischelletto dark da Rione, monti dove siamo nati, fino sullo spazio dove galleggiamo. Ho roba addosso come un galleggiante, lei mi chiama ma non vuole niente, no, perdi tempo, porta Portese, sto con la gang, fa triplo 721 grammi e non siamo morti. Fiato corto e parliamo poco, questa merda no, questa merda è un gioco. Provo a fottermi, pessima scelta, torni a casa sporco di merda, so come alzarli, siamo come zingari, so come spendere le puttane vestiti. Siamo la merda fresca che ora preferisci. Zenzero in cucina, padelle ballano il valzer. Dark gang, triplo 7, siamo la squadra da battere. Zenzero in cucina, padelle ballano il valzer. Dark gang, triplo 7, siamo la squadra da battere. Siamo la squadra da battere. Il diavolo ce l'ha con me, i miei angeli sono con me, i miei diavoli sono con me. Dark gang DPG 777 ha una catena al collo, come uno schiavo. Devo stare alto, l'ammetto, sono uno schiavo. Devo stare calmo, l'ammetto, forse ho rischiato. Spendo tanti soldi, penso che li rifaccio. Facciamo sempre qualcosa, domani non sai se ti alzi o no. Non hai soldi per fortuna la dark, chiedi se te li alzano. Non entrare nei miei panni, vedi non ti calzano. Alziamo segni con le mani e ci alziamo l'un l'altro. Sto dondolando e non casco, sgocciolato, sei scivolato. Diamanti bagnati al collo, sembra che ho fatto un carpiato. Gioielli malati addosso, hanno lights conclamato. Ognuno dei miei cani è un molosso affamato. Sei un cucciolo domestico, dark gang, siamo un branco. Ci prendiamo il nostro spazio, quindi non starci accanto. Acqua di nebbia al collo, addosso droga e carati. Dolce Gabbana strappati, addosso a 25 anni. Non puoi fermarci, volo in alto come draghi e gabbiani. Questi soldi sono un tormento come lei quando chiama. Sto fumando così tanto che ho le orecchie tappate. E se non parli di quello allora lasciami stare. Siamo ovunque come la febbre, le pulce e le buttane. Ho così tanta roba in tasca che buttano la chiave. Ho così tanto oro al collo, quando passo c'è il sole. Ho così tanta droga addosso che quando passo piove. Piove DPG 777, non chiamarmi amore. Alzo soldi ogni giorno, lei si chiede come. Porto soldi a mia madre, lei si chiede come. Vendo merce alle guardie, lei si chiede come. Tua figlia vuole me, lei si chiede come. Al polso tre stipendi, Fendi è il mio cognome. Dream Team, devo alzare tanti soldi come PSG. Devo prendere un sacco d'aerei, bipolare quindi ho due passaporti. Ferrone, boxer, no box out. Letto con clan, esprimi un desiderio. Ci verrebbero morti sotto terra, in overdose con gli occhi a rovescio. Baby sto alto come la Finlandia, catene d'oro, quei brillanti. Stanno ballando, fanno piroette, come pattinaggio sul ghiaccio. Principe Pyrex, principe Saiyan, puoi chiamarmi un po' come cazzo ti pare. Sono un re leone, come Mufasa. Uso Fendi e Gucci come pigiama, in cucina con padella e grembiule. Io la gang non fottiamo con nessuno, e sta merda è ovvia come 2+2. Mezzo litro di ketamina in acciaio inox, Air Max tiane rosse come Gabibbo. Così tanto banconote che ti sembra un libro. Come cazzo fai a dormire a casa con un chilo? Ma voglio diventare ricco ricco da far schifo. Schi cielo intorno come San Matteo, baby stolto come una mongolfiera. 7-7-7 Roma centro, stiamo trappando tra i monumenti. Chiamo i miei figli Cristiano e Chanel. Fottere con noi è come fottersi Belen. Caccio la tua ragazza fuori dalla mia Toyota. Pyrex baby che gli spazza cuore. Facciamo veloce come una vaga in zonda.